حطيت ورود الحب قدامك، بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب، سيب الألم، سيب السلاح، سيب السلاح وتعالى، تعالى نعيش، تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب، سيبوا الألم، سيبوا السلاح وتعالوا نعيش، تعالوا نعيش في سلام. مصرية. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che un sole ha ridotto già, vecchi. Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affocare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca delle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. Ciao a tutte le compagne che seguono Radio Silo. Ecco, questa è la seconda puntata che facciamo in diretta dal centro sociale e diciamo era da parecchio che non parlavamo di un personaggio noto, cioè non parliamo del Crozza comico ma parliamo del Crozza politico, alias Vincenzo De Luca. È normale che, diciamo, perché parlare di lui? Perché non possiamo far finta, non possiamo non dire nulla anche dopo l'esito elettorale del 4 ottobre. Allora, l'esito elettorale del 4 ottobre ha visto, diciamo, proprio l'annientamento anche di quella sinistra istituzionale, cioè proprio una figuraccia, sia da quella lista civica di sinistra che diciamo che si chiamava o che si chiama, mo non lo so, mi sembra che lui addirittura se sia diventato il titolare di questa sigla, di questa lista civica di sinistra che 5 anni fa diciamo ottenne un ottimo risultato politico, che diciamo che ha espresso un consigliere comunale, per una manciata di voti non ha espresso il secondo consigliere comunale. Noi è chiaro, sulle questioni elettorali ognuno ha una sua visione diciamo politico culturale. Però è un dato di fatto, visto che noi viviamo in una città e le elezioni amministrative al di là di tutto, diciamo, sono un segno politico del territorio dove uno opera politicamente. E cosa dire? Che è, diciamo, l'operazione di arrivare a distruggere e quindi continuare al mantenimento dello status quo è stata completata da parte di quel consigliere che è stata eletta da una lista civica di sinistra a cui hanno partecipato tantissimi compagni, si era creata anche una sorta di entusiasmo e che, diciamo, anche per le varie vertenze che nella città si erano determinate, la questione ambientale, la questione dei disoccupati, la questione della sanità, avere, diciamo, un referente o una parte terminale, diciamo, vertenziale dei conflitti, allora sarebbe stata una cosa importante. Per 5 anni nessuno, diciamo, questo personaggio, questo consigliere, cioè di lui nessuna traccia, tranne qualche fotografia su un giornale e su qualche quotidiano locale. Ma di quei punti che erano stati votati a livello assembleare da una comunità politica salernitana, neanche un mezzo punto è stato portato avanti. E, diciamo, il dato politico è, diciamo, che ha fatto una figuraccia insieme anche a un'altra sigla politica, hanno fatto entrambi una figuraccia. Il che, diciamo, politicamente dovrebbe far porre almeno un minimo di riflessione, di autocritica, ma con un cinismo che contraddistingue una certa sinistra salernitana, tutto, diciamo, passa, tutto scivola e poi saranno pronti a ripresentarsi alle prossime scadenze elettorali. Ritorniamo a, diciamo, il tutto in un contesto in cui quasi il 40% del popolo salernitano non si è recato a votare. E, diciamo, il deus ex machina del risultato elettorale della continuità della giunta guida PD, allora sì, diciamo, anche questa volta ha impresso il suo marchio, il suo timbro. E stiamo parlando dell'attuale presidente della regione Campania, nonché sindaco di fatto della nostra città, che ha utilizzato anche la destra perché si ipotizzava una sorta di ballottaggio tra l'attuale la giunta uscente con il sindaco Enzo Napoli ed un'altra lista, come devo dire, democratica, diciamo, e poi diremo pure qualcosa su questa coalizione. Allora, e per l'attuale, per De Luca sarebbe stato uno smacco, per cui la sua operazione di sostenere indirettamente tramite dei suoi adepti la destra era tendente proprio a che se, diciamo, ballottaggio doveva esserci con la lista, con la coalizione di destra. E allora non si è andata al ballottaggio, quell'altra lista civica, diciamo, democratica, io la considero, insomma, politicamente è più vicina alla Democrazia Cristiana, diciamo, quella popolare, di Martinazzoli, quella corrente demitiana, e che, diciamo, sembra che possa determinare che si, diciamo, in Italia, diciamo, la configurazione di una nuova corrente politica che è fatta da componenti di 5 Stelle, componenti di centro-sinistra, qualcuno di sinistra, appendice di Sinistra Italiana, eccetera, eccetera. E Leo e quant'altro di queste sigle. Però ritorniamo al tema della discussione, che può sembrare un tema diciamo di carattere folcloristico, ridicolo, ma se non ci fossero delle complicazioni politiche e di politiche privatistiche che diciamo sono state accelerate non solo nella nostra città ma a livello regionale, allora tutto sarebbe andato bene. Invece qua parliamo, non ci sarebbe stato nulla di male, anzi sarebbe stato pure un qualcosa di folcloristico, perché quando un uomo politico, diciamo, nel suo modo di fare, nel suo modo di esternare, si esprime del tipo Salerno sono io, qua abbiamo il santo patrono di Salerno che dice la città è mia, San Matteo, e diciamo lui ha queste tipologie di espressione. Infatti le affermazioni egocentriche di Vincenzo De Luca nel post esito elettorale nella città di Napoli e Salerno, cioè addirittura dal modo di cui parla lui, come se si arrogasse il diritto proprietario sui due capoluoghi della regione Campania. Queste esternazioni non sono casuali, come abbiamo detto prima, ma sono forme propagandistiche in primis tese ad essere riportate nel programma di Crozza, ma diciamo in una logica populista e tenendo conto anche del livello culturale che impera in molte, molte comunità e città, e queste forme propagandistiche fanno parte di una regia che ormai collaudata, che in questi decenni ha prodotto ampi consensi elettorali e risultati politici importanti al De Luca e alle varie compagini del PD, eccetera, eccetera. Allora, quindi, congiuntamente ai titoli di proprietà su Napoli e Salerno si aggiungono anche metodi di esternazione del signor De Luca che diciamo hanno un riferimento storico che si rifà al re di Francia Luigi XIV con quel motto, così diciamo anche l'état c'est moi, cioè lo Stato sono io, che con il quale legittimò l'accentramento dei poteri dello Stato nella propria persona, dopo aver instaurato una monarchia assoluta per volontà divina. È chiaro che l'esternazione dei comportamenti del signor De Luca fanno leva sul tasso di plebeismo politico-culturale che deriva dalla dissoluzione della sinistra, e specie in alcune comunità della regione Campania. Questo, diciamo, per quanto riguarda lo stato di salute della sinistra campana, non possiamo proferire parole su ciò che riguarda la città di Napoli. Al contrario, però, per Salerno le affermazioni del presidente della regione Campania, nonché sindaco di fatto della città di Salerno, cioè l'affermazione Salerno sono io, è appropriata ed è veritiera, nessuno può contraddirlo su questa cosa. È chiaro che da che deriva appunto questa arroganza di questa tale espressione Salerno sono io, la conferma rappresenta il tasso di plebeismo, come abbiamo detto prima, imperante nella nostra città, che caso strano ciclicamente viene conclamata dagli esiti delle elezioni amministrative locali e da come questi risultati presumiamo anche a livello delle prossime elezioni regionali. Chiaro, come si può dar torto e come si può a Vincenzo De Luca senior, con un De Luca junior che rivesta la carica di deputato parlamentare nelle file del PD, ricordiamo eletta ad Aversa, manco a Salerno, e con l'altro junior, figlio junior, in procinto di un incarico di assessorato nella prossima giunta comunale, che tra l'altro sarà propedeutica all'investitura di sindaco per l'anno 2026. Queste sono le notizie che stanno circolando, perché stanno cercando di fare la nuova giunta comunale, ed è chiaro che queste indicazioni verranno da Palazzi Santa Lucia di Napoli. È chiaro che, ecco, l'altro dato che gli può permettere di dire Salerno sono io, ricordiamo che De Luca è nel trentennale della sua gestione politica locale e regionale. È una gestione, quindi, come devo dire, ricordiamo sempre, dinastica, che nella nostra città, che è sostenuta e perorata dagli organi nazionali del PD, non è che è solo, cioè lui ha un peso politico importante nel PD, insomma, questa è la faccenda, per cui fanno finta di torcere il naso su certe politiche, certe affermazioni, però di fatto corrono da lui per risolvere per la questione di consensi elettorali. È chiaro che il dato sconfortante, ecco perché ci sarebbe da ridere solo se rimanebbe un'espressione teatrale, ma il problema è che il potere dinastico de Luciano, ecco, questo è un dato sconfortante, al potere dinastico di De Luca ha contribuito in questi decenni la sudditanza ed il servilismo di una sinistra sinistrata, e non solo, ma anche delle organizzazioni sindacali, specialmente quelli del pubblico impiego, i cui unici ruoli e scopi sono quelli del mantenimento dello status quo, che appunto perdura non a caso da 30 anni. E anche qua, insomma, ecco qua, ritorniamo alla situazione del ruolo di quel consigliere di Salerno di tutti. Allora, e di fronte a questa situazione, di fronte a questa esternazione, a queste politiche, non c'è stata nessuna indignazione da chi avrebbe dovuto svolgere un ruolo di opposizione anche negli ambiti istituzionali, e questo è il caso di quel consigliere eletto 5 anni fa nella lista civica di sinistra, che è bene ricordare che nel programma si dava massima priorità al lavoro, all'inclusione sociale, alla questione della scuola, della sanità, ma anche una cosa importante è la questione di arrivare a determinare una rete di controinformazione in una città in cui, non peraltro noi abbiamo dedicato a ciò che il Mattino non dice, in cui la censura politica, o meglio le distorsioni delle informazioni, il controllo delle informazioni è qualcosa che fa rabbrividire. Allora, ecco dove arriviamo al dramma legato a queste esternazioni che fanno anche ridere. Allora, come è gravissima la mancanza di opposizione e di indignazione, specie nei 5 anni passati. Allora, la cosa importante qual è? Che si è privatizzata, esternalizzata tutta il 90% dei servizi pubblici come l'igiene urbana, stiamo assistendo alla chiusura di uffici comunali come quelle dell'anagrafe, così come rischiano anche la chiusura anche altri uffici e servizi pubblici fondamentali per i cittadini. Dove manco a farlo apposta, su queste, perché noi abbiamo avuto in questi 5 anni un'accelerazione selvaggia della privatizzazione, e in questi 5 anni quella che si è distinta per la totale e vergognosa assenza, il consigliere citato prima. Guarda, il paradosso qual è stato? Che l'unica forma di opposizione istituzionale nei 4 anni, 3 anni e mezzo, è stata portata avanti da un consigliere comunale che passò con la Dema, e che poi l'assurdità, lo squallore, poi è passata nelle fila della Lega, e questo consigliere è stato riconfermato come consigliere. Però c'è da dire un altro fatto, che la privatizzazione selvaggia, lo smantellamento della cosa pubblica a Salerno, non è altro che il risultato delle enormi responsabilità storiche in cui, proprio negli anni in cui si maturavano queste e si indirizzavano le scelte politiche privatistiche di De Luca, è venuto negli anni, nonostante la presenza di assessore e consigliere appartenente alla sinistra e alla Rifondazione Comunista, che quindi le grandi responsabilità negli anni precedenti, nei decenni precedenti, dove la privatizzazione era così palese che stava andando avanti, e ricordiamo, oltre alla responsabilità e complicità di queste formazioni esiste, comprese Rifondazione Comunista, abbiamo avuto il ruolo delle organizzazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL, della funzione pubblica, specialmente del comune, e dei sindacatini di destra, di cui uno oggi addirittura è il primo sindacato nel comune di Salerno. Quindi non solo è avvenuto e non hanno fatto nulla per impedire queste privatizzazioni, ma si è avuto anche da un punto di vista politico l'indifferenza politica dell'intera sinistra locale. È chiaro che l'unica forma d'opposizione l'hanno avuto i movimenti di lotta per il lavoro, i movimenti per l'ambiente, quel po' di sindacato puro legato alla questione della sanità, solo i movimenti di lotta per il lavoro, e lo possiamo dire con fierezza e con decisione, asilo politico. E vediamo che il movimento di lotta per il lavoro in quegli anni si è imbattuto contro il muro della repressione e dell'indifferenza della sinistra locale, e che questa sinistra gli abbiamo dato anche una definizione, una sinistra turistica che appare soltanto nelle scadenze elettorali. Turistica perché sembra che in questa città molti compagni e questa sinistra sia qua solo per turismo e non ci viva, che non vive, che non paga le tasse qua, che non vive i problemi dell'ambiente, vive i problemi della precarietà, vive i problemi delle scelte cementificatorie e anche la questione delle restrizioni delle libertà politiche e culturali e il controllo dell'informazione. Ecco perché le definiamo questa sinistra salernitana locale, una sinistra che fa un turismo politico. E che siamo convinti e siamo quasi certi che neanche rispetto all'ultima batosta elettorale avuta il 4 ottobre scorso scivolerà, sì, addirittura qualcuno che si è lamentato, ma proprio vergognosamente, non avverrà nessuna seria e doverosa ed onesta autocritica. Ecco perché consideriamo questa sinistra locale salernitana sinistra turistica. Ora diamo un po' di parola alla musica. Son de Salerno e dico grazie a mamma che mi ha fatto nascere in questa città. Ogni giorno che guardo è più bella, non la voglio abbandonare. Son di Salerno innamorata e mi fa pena, a stagione faccio il bagno in da costiera. Vago girando per quartiere, com'è bella lo tramonto che ci vista ieri. Candette, fascimi mozzarella, mezza vice stanno signorina troppo bella. Ma faccia le tue piccole che renne papelle, cercando di salungare rassicazzi tarandella. Allo, quelle che te voglio risci, tenimmo scelente, tenimmo la licci. Ehi, invece sta caccia la mandà, mi rimisca sari da questa città. La città era mia, rosto, e non si le vita veri strong. Povo conto, chiunque c'è venuto, sicuro si è trovato in buono stato, si è allegriato. A stagione, solo bruci, umare scire in fresh, alice marinate, scarpariella in coppa e tavola era il nostro. Siti benvenuti, vedete che il mare è uno specchio naturale, affiancato da custieri. Son che salerno e dico grazie a mamma, che mi ha fatto nascere in questa città. Ogni giorno che guardo è più bella, non la voglio abbandonare. Son che salerno innamorato e mi fa pena, a stagione faccio il bagno da costiera. Vago il gigante per quartiera, com'è bella lo tramonto che c'è vista ieri. Voglio variare, voglio suonare, voglio stare assieme. Gente che muda per senza niente mi va bene. Lentamente voglio girare spagnello, ma voglio più tempo che mi serve solo quella. A stagione stiamo in coppa a lungo mare, tanti belle signorine, fino fino che sono belle con malore, che si perdono da un bicchiere di vino. Che contentezza di chi sto mare senza prezzi, ma porta felicità, serenità. Con tutta stagione l'aria fresca, a mare stanno in rezza, calate riparanze, cultura e dolce era nostra. Città i pescatori che faticano per se portare a casa sta sostanza. Son che salerno e dico grazie a mamma, che mi ha fatto nascere in questa città. Ogni giorno che guardo è più bella, non la voglio abbandonare. Son che salerno innamorato e mi fa pena, a stagione faccio il bagno da costiera. Siamo in ragionamento che stavamo facendo prima, accendo una sigaretta. Allora, parlavamo di turismo politico della sinistra salernitana, sempre legata perché il sindaco De Luca l'appoggia su Frodian, ma fino a un certo punto, nonché presidente della regione Campania, si può permettere di parlare così. È proprio per il vuoto a sinistra che ci sta. Vuoto che è stato colmato sempre dai movimenti di lotta sociale o dal, come abbiamo detto, da quel sindacalismo onesto, molto sindacalismo onesto che diciamo si è opposto a De Luca. E avevamo detto appunto questa sinistra locale salernitana che diciamo è come se avesse fatto una scelta di essere turista e quindi non residenti. E diciamo ci sono alcune considerazioni da fare, sarà il senso della rassegnazione, sarà per la delega agli specialisti del problema, sarebbero le segreterie politiche, sia politiche che sindacali, così come diciamo le conoscenze personali con i potentati politici di turno. Quindi è una scelta culturale che è stata fatta, non è casuale, perché le condizioni per determinare movimenti di opposizione reale e di modificare, perché in questa città storicamente, ecco, dovremmo ritornare un po' di decenni, però soffermiamoci a questo ventennio, diciamo, abbiamo avuto l'opportunità, abbiamo ottenuto pure come movimenti grandi enormi diciamo risultati, abbiamo impedito la costruzione della centrale termoelettrica, della mega centrale termoelettrica, abbiamo impedito la costruzione dell'inceneritore, abbiamo le lotte con gli immigrati e insomma tante cose, anche nella sanità, il mantenimento ancora di forme pubbliche di servizio pubblico. Allora noi consideriamo che questa sinistra locale abbia fatto proprio una scelta culturale, perché diciamo, se no è come se, è chiaro, se ne tutto quello che abbiamo detto prima, quindi il turismo, la delega, il turismo politico, la delega alle segreterie, è come se in questa città il sostegno diretto e indiretto a Vincenzo De Luca, non solo della sinistra ma anche della destra, per i suoi rapporti storici di interessi che c'ha, è come se nella nostra città non esistessero problematiche serie e gravi che preesistevano prima della pandemia e peggiorate successivamente alla pandemia. E ricordiamo che in queste serie problematiche versa più del 70% della popolazione locale. E questa è, oltre a definire, e ecco perché considerare di Salerno una città plebea o babba, allora non è sbagliato. E lui si può permettere di dire: Salerno sono io, Salerno è mia. Tanto è vero che, come devo dire, lui proprio tiene conto di questo deserto culturale, di questa narcosi collettiva, e lui sguazza quando fa le grandi opere, la Piazza della Libertà, che a noi costa tantissimi, tanti milioni di euro. E la gente, proprio a livello da come plebe, va ad onificare, a pontificare questa, questa scelta, questa, questa opera, che è, diciamo, è un'opera che è, ha, diciamo, non fa altro che dare alle holding del turismo, alle mega holding del turismo, più potere economico, anche di condizionare la vita della nostra città. Questa città ormai è una città di bar e ristorante, sono coloro che fanno il bello e il cattivo tempo. E su questa definizione di Salerno città babba, non a caso riportiamo un articolo nostro del 24 settembre del 2015, del nostro, diciamo, non solo del nostro sito, ma anche dei giornali che facevamo, dal titolo "Ciò che il Mattino non dice", ecco, proprio per ritornare al controllo sulla informazione. E chi lo può, noi avevamo il sito www.ecn.org, asilo politico. Allora, ecco, diciamo, entriamo appunto in questo pezzo di articolo. Per comprendere il tasso di questo è del 2015. Per comprendere il tasso di plebeismo raggiunto nella nostra città, basta semplicemente ripercorrere la lettura delle prime pagine del principale quotidiano locale nella nostra città, che, ecco, che da tre mesi, giugno, 22 settembre, con titoloni, foto e quant'altro, quotidianamente ha catalizzato e focalizzato l'attenzione dei propri lettori e cittadini, oltre alle cronache giudiziarie scandalistiche, su due notizie così sottosintetizzate: il voto al comune di Salerno, De Luca Junior nella lista PD, il consiglio comunale, dibattito sui fuochi per la processione di San Matteo. Allora, sarà per un motivo puramente commerciale, legato prettamente alle vendite delle tirature di stampa, o, diciamo, tale quotidiano esprime il livello di arretratezza culturale, economica, sociale. In pratica, ecco, chiarisco, i giornali catalizzano l'attenzione della città, lo hanno sempre fatto così e lo fanno tuttora, da un punto di vista, diciamo, scandalistico, ponendo, diciamo, l'attenzione sui problemi che, diciamo, che non riguardano i problemi reali della città, ma che riguardano, una volta erano le vicende giudiziarie del figlio di De Luca, il padre, eccetera eccetera, e quindi per mesi si parla in città solo di questo. Poi si parla dei fuochi di San Matteo. Allora, in pratica l'attenzione della gente viene catalizzata su questi fenomeni proprio da plebe, che, diciamo, la gente deve parlare davanti ai bar, nelle mie zavie, nei posti, solo di questo e non dei problemi seri. Ora si è aggiunto un altro particolare. Ecco, voglio aggiungere, alle vicende politiche e giudiziarie, alle vicende dei figli, alla questione di San Matteo, si è aggiunto il ripascimento delle spiagge, che poi tra l'altro non è altro a aver contribuito a ridurre, per consegnare ai privati anche quel poco di spiagge libera che ci stavano, e per aumentare i profitti dei liti privati. Allora, poi abbiamo a Salernitana inseriamo, ha fatto pure Piazza della Libertà, che lui è contrario che in questa piazza possano circolare le biciclette e tant'altro, e ha messo guardie private e polizia municipale a far sì che neanche con le biciclette si possa andare in Piazza della Libertà, un qualche cosa proprio. Ma lui è consapevole che sta dicendo delle cose che magari fanno pure incavolare qualcuno, ma è consapevole che si deve parlare di questo, perché lui deve passare come sindaco, passò come sindaco sceriffo, sindaco del Napalm, eccetera, eccetera. Ora passa come quello che, diciamo, ripercorre e rincorre i bambini che vanno con le biciclette o che giocano a pallone nella piazza. Però questo è funzionale alla sua propaganda politica culturale, perché è così che crea il suo consenso. Allora, e perciò dicevo, questa è la servitù dell'informazione locale, che se da un lato lo fa per vendere i giornali, oltre alla sudditanza al presidente della regione Campania, nonché sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, il giornale esprime proprio il livello di arretratezza culturale, economica e sociale che ha raggiunto nella nostra città in più, ecco, siamo proprio in 30 anni. E proprio per la, diciamo, dove si evince la totale assenza, o meglio, complicità anche di un tessuto politico culturale che, diciamo, è divenuto ceto, o forse il termine più adatto, casta. È chiaro che, come devo dire, ecco, continuiamo, a conferma di quanto sopra, nonostante la nostra città, con annessi il territorio provinciale, come risulta dai dati Svimez, nella classifica dei tristi primati, essere posta, Salerno, è posta nei primissimi posti per l'alto tasso di disoccupazione. Un salernitano su due è disoccupato, uno su tre è emigrato al nord o all'estero, tasso di fallimenti e chiusure di attività commerciale e industriale, numero elevato di suicidi, e poi per l'alto uso di droghe, alcol e antidepressivi, e anche per le tasse più care d'Italia, con i fitti di case e magazzini più care d'Italia, cementificazione e privatizzazione selvaggia del litorale marino. Stiamo parlando del 2015. È chiaro che le catastrofiche, e questo sempre rispetto all'articolo, le catastrofiche cifre e i tristi primati sopra evidenziati dovrebbero suscitare in città almeno un po' di indignazione, un po' di dissenso, a cui dovrebbero contribuire forze politiche, il mondo della cultura, organi di informazione compresi. È chiaro che se ciò avvenisse, per Salerno verrebbe meno la considerazione di città plebea o babba. A quanto pare il ruolo di qualche organo informativo, disinformativo locale è quello di, come abbiamo detto prima, di catalizzare, fossilizzare l'attenzione pubblica per 12 mesi l'anno nella suddivisione quadrimestrale. Per 4 mesi si deve parlare della processione di San Matteo, da giugno a settembre, 4 mesi per le luci di artista, ottobre, inizio febbraio, 4 mesi restanti per le vicende politiche e giudiziarie, all'epoca c'erano le vicende politiche e giudiziarie del primo cittadino di Salerno. Se il vivere quotidiano dei nostri concittadini è dettato dall'oblio e o da una narcosi collettiva, tutto ciò è permesso anche dal vuoto culturale, dove l'informazione e disinformazione ha una certa importanza. E qua Berlusconi, docet. Tutto questo, pur esistendo nella nostra città forme di espressione di pensiero critico e di opposizione politica in termini molto resistenziali, quotidianamente debbono fare fronte all'opera di marginalizzazione e delegittimazione portata avanti da un ceto politico, il cui ruolo è quello del mantenimento dello status quo, compreso in mantenere in vita il comune senso del pensiero plebeo, che si caratterizza per il lamentio, se servilismo, le risse del sabato sera, ostentazione dell'effimere, e chi più ne ha e chi più ne ha più ne metta. E ora mettiamo diciamo un altro pezzo musicale, E quindi, ecco, quindi ecco perché lui si può permettere il lusso di dire, fare della formazione, Salerno sono io, ma qua fra poco arriverà a dire esplicitamente la regione Campania è mia. Capiglia certa gente capace, chi cresce pavisa cash, chi riesce agli annanz sotto a sti palazzi, ascia famiglie e piazza, del bene di noi stesso, coloro d'obbito sangue, sangue che sa per asfalto, lo stesso sangue che sa per entrare all'azzo, sangue che da chi ti fa nasce, da vissa gli atti anni, si avvissa dice tornasi, Arona viene, Arona venga, sono 20 anni che sto a terra, voglio nei miei suoi campi, legalize the amp. Talmente tanta gente che se lamenta, ogni istante sogni infrante, raramente uno si sta contento, questo in un momento distante, repensiero fatto, c'è come è, anche pazienza, pensi desideri, sant'anni, sott'anni, spasci per tanti ancora, chi si sporge fuori e si accorge, ripoli, ti montano, contano, contante, ti smontano, se non sei importante, te ne puoi, ci vola l'occhio al giorno d'oggi, noi scuogli. Irema è vaga contro correnta, in da chi su mare, mare, mare, fa riemda, Irema è mana vaga sotto sola, l'anni che sta accenda e che si tradiziona, varima che la gamma fa, varima che la gamma fa, varima che la gamma fa, voglio buttarmi in mano ma non ce facciamo fa, la gente guarda sempre sotto all'occhio, e in dall'occhio non ti guarda mai, la gente guarda sempre sotto all'occhio. E rinda noccia non ti guarda mai, ma mamma mai, Irema è vaga contro correnta, inda chi su mare, mare, mare fa rienda, Irema è mana vaga sotto sola, parlane che sta agenda, e che sti tradizione estiva. Guarda turno e notto e giorno, stai in guardia, chi te può fotte, non te ne scurna, te mena sotto e una lotta non te fa, chi te rapporta non torna più, non dorme tu, da qua, si sente fredda e cacca, chi me ne prende spacca, quei, sicuro vaga in terra, ma i se fa facciamo sta guerra da ferro da sciacca, non è un yoga, non yoga, per i soldi papà non dattia, non da permettere lo facca, se mi capisci, da fuoco e te liscia, fuoco si pisce e scialla, la si da flescia viene a ca, splash, splash, splash, vai finisce, paga per in da ghiazza, e capita buona vita in un magago cazzo, state tu, state giù, non te spatte, datterà foto, vatte, vatte in a ca. Ia te una pacienza, sa da castazza, si pensa e cessa, raggendo, fai avasazza, a mia è forte se presentano da tanti razzi, se capisci che non c'è poi che fa, a me mi pare troppo strano che tu non passa, e quando ci fai fa massa, si tuo male incapa, chi cambia in tuppe è meglio che capisci a roia spuga, o se ne torna a casa male che va. Irema è vaga contro correnta, in da chi su mare, mare, mare fa tienda, Irema è mana vaga sotto sola, l'anno che sta accenda e che si tradiziona, varima che la gamma fa, varima che la gamma fa, varima che la gamma fa, voglio buttarmi in mano ma non ce facciamo fa, accendo guardo sempre sotto all'occhio, e in dall'occhio non ti guarda mai, accendo guardo sempre sotto all'occhio, e in dall'occhio non ti guarda mai, mai, Irema è vaga contro correnta, in da chi su mare, mare, mare fa rienda, Irema è mana vaga sotto sola, parlane che sta accenda e che sti tradizione stivai. Torniamo sul concetto di Salerno, sono io, Salerno, città plebea, eccetera, eccetera, città babba. Il problema è chiaro che, come abbiamo parlato, vi sono delle responsabilità politiche che, ecco, noi dovremmo ritornare indietro di un bel po', di più di un decennio. Però, come dire, noi nella 30 agosto del 2013 facemmo un'iniziativa perché come asilo politico ponevamo, ecco, un dibattito all'interno della sinistra di idee, di progetti, di proposte e diciamo sulla possibilità di determinare un welfare locale, insomma, e a partire proprio da, come devo dire, da alcuni dati Istat, e stiamo parlando da dati Istat del 2013, che diciamo i portavano che il fenomeno emigratorio in Campania, la seconda regione in Italia, e da Salerno diciamo andavano via la gente scappava per lavoro eccetera eccetera, più da Salerno che da Napoli. E diciamo, ecco, voglio leggere alcuni punti di questo documento su cui facemmo un'ottima assemblea, un'ottima riflessione, proprio perché i tentativi di risollevare lo stato di salute di un'opposizione politica ci sono stati. Cioè, noi come asilo politico abbiamo sempre diciamo posti come diciamo coloro che stimolavano al dibattito. E leggiamo alcune cose, insomma, alcuni spunti dal documento sul welfare locale. E poi ripartire proprio dai dati, parliamo del 2013, 9 anni fa, no, che sono di una attualità drammatica. Allora, portiamo alcuni spunti, parliamo. Le tematiche poste in oggetto su cui riflettere il dibattito esprimono una forte difficoltà e complessità, perché il discutere su ipotesi di welfare locale significa automaticamente porre l'accento sul protagonismo diretto delle comunità, a cui necessita una metodologia, strategia e quindi una prassi politica molto articolata. Comunità intesa quale insieme di entità umane che non vogliono essere più meri soggetti passivi, ma protagonisti, in quanto consapevoli e coscienti delle proprie capacità, in grado di progettare, ipotizzare modelli sociali, relazionali, economici e culturali adeguati ai bisogni reali della gente ed ecocompatibili col proprio territorio. Centralità e o protagonismo diretto della comunità per determinare forme di vivere in opposizione alle barbarie del capitalismo, cannibalismo finanziario, che sia su scala planetaria che locale ha ridotto più di 3/4 dell'umanità in una profonda precarietà e povertà, unicamente per fare fronte ai propri schizofrenici bisogni di profitto e di potere. Delle barbarie del comunismo, i cui esiti del capitalismo, ma questo è un lapsus, mamma mia, delle barbarie del capitalismo, i cui esiti drammaticamente e quotidianamente subiamo in tutte le sue forme di espressione, economicamente, repressivamente, culturalmente, ambientalmente ed esistenzialmente, questo diciamo 9 anni fa, non è dato sapere e comprendere quali siano gli scenari futuri. E diciamo quel che sta succedendo attualmente, diciamo, sta in linea, insomma, su quel che dicemmo 9 anni fa. Quindi si può intuire, ma non comprendere l'esatta proporzione di cosa si prospetta in campo internazionale, nazionale, regionale e locale. Come a dire, al peggio non c'è mai fine. Noi pensavamo che all'epoca avevamo un tipo di logica di problemi, oggi abbiamo i problemi simili, ma peggiorati del 100%. E proprio in fasi storiche come queste, del 2013 stiamo parlando, che bisogna necessariamente mettere in campo, in termini di fruibilità cognitiva collettiva, il sapere critico e i riferimenti storici che possono fungere da stimolo per determinare idee e forze collettive in grado di sperimentare ipotesi di modelli sociali emancipati che pongano come priorità i bisogni reali della gente contro ogni forma di miseria, sia economica che esistenziale e culturale. Ci sembra quindi opportuno che dalle individualità organiche di pensiero alle entità collettive, intese come associazionismo impegnato nei vari aspetti della vita e del quotidiano, dal mondo del lavoro al mondo del sapere, delle varie forme di categorie sociali e lavorative, ci si attrezzi di conseguenza per fare fronte alle gravi problematiche che vivono oggi, dalla classe operaia al ceto impiegatizio, artigianale e commerciale, ossia ciò che un tempo rappresentava la piccola e media borghesia. Per finire, all'enorme massa dei senza niente, le cui uniche prospettive di vita sono rappresentate dalle discariche sociali, carceri e reparti psichiatrici e dall'enorme tritacarne delle proprie esistenzialità che si consumano nelle chiuse delle proprie case, nei propri quartieri, a cui rimangono solo i sogni del passato o di una vincita. Nella fase attuale, dove la classica avvertenza, o meglio, le migliaia di avvertenze articolate nel Paese per la difesa dei posti di lavoro, per l'acquisizione di un reddito, per la difesa della salute, sui diritti in generale, rappresentano dei veri e propri pantani fustellati dalla presenza di sabbie mobili, dove ogni singola avvertenza, ogni singolo corteo e o manifestazione si trasformano in un funerale. Perdita continua di diritti e di libertà, in quanto il capitalismo, con le sue espressioni politica, militare e culturale, non è disposto a retrocedere nemmeno di un centimetro. Sarebbe opportuno e necessario verificare e sperimentare altre metodologie e forme di lotta nell'esplicazione del conflitto. Quindi, che diciamo necessitazione del conflitto, che diciamo è legato anche a metodi e strategie come il lavoro d'inchiesta, sperimentazione, proposte, praticare sempre anche con il contributo del sapere critico, che tengono conto del coinvolgimento della comunità non più passiva ma in movimento. Basterebbe rafforzare il senso di comunità e con il buon senso da parte dei rappresentanti delle istituzioni, degli enti locali, prefetti, sindaci e province, che facendo fronte comune con l'organizzazione sindacale, movimenti di lotta sociale, comitati dei cittadini, possano insieme ipotizzare modelli socio-economici equi e basati sulla solidarietà, dando alle attività culturali di base ed al sapere critico la funzione di antidote alle barbarie conseguenziali delle varie emergenze come precarietà e povertà, che dalle manovre in atto sembrano essere più aggravate. È fondamentale che, che gli enti, sino a quando non si esca dalla crisi, stiamo parlando di 9 anni fa di crisi di allora, siano riferimento e garante di quelle fasce sociali deboli che già vivono le drammatiche emergenze sia di reddito, lavoro, abitativo e assistenze sia sanitarie che sociali. Il lavoro d'inchiesta che nelle città, in base alle caratteristiche, carattere morfologico, paesaggistico, naturalistico e come densità abitativa, in cui sarebbe possibile sperimentare forme di welfare locale e coniugare emancipazione comunitaria a qualità della vita, tenendo conto dei bisogni di tutte e tutti, mantenendo e garantendo l'ecocompatibilità e la sostenibilità con le caratteristiche naturali. Mare, aria, il verde. Quindi ipotizzando proposte di reddito locale come risultante da inchiesta sul reddito reale circolante nei rispettivi territori in base al numero di abitanti, al tasso di disoccupazione, ipotizzando forme di lavoro legate alle caratteristiche di cui sopra, in cui anche un'ora di lavoro al giorno per tutto e tutto, ognuno secondo le proprie possibilità e capacità. Reddito locale anche al reddito legato anche al reddito indiretto, al problema alloggiativo, un problema che assume aspetti paradossali in quanto ai migliaia di senza tetto si contrappone un patrimonio immobiliare caratterizzato da centinaia di case e strutture libere, sia pubbliche che private, il cui 90% è degradato e abbandonato, la cui valorizzazione è funzionale a speculatori finanziari e società con possibilità di denaro liquido o contante, compreso anche il lavaggio e il riciclaggio. Ecco, io mi vorrei fermare qua, perché quando ipotizziamo welfare locale, ipotizziamo che sulla spinta dei movimenti, anche gli enti istituzionali, ponessero il problema, ecco, del welfare locale, un modo partecipativo, è chiaro che, e noi stiamo parlando di 9 anni fa, la triste immagine di un copia e incolla alla realtà odierna, una realtà odierna che noi dove la pandemia ha fatto scatenare tutte quelle problematiche di cui abbiamo parlato prima, e diciamo con il, le drammatiche condizioni di precarietà, di miseria, di restrizione delle libertà, di, con la finanziarizzazione della vita, con la tenuta in precarietà totale di una buona parte della, delle comunità. E noi all'epoca già, anche perché c'era il movimento di lotta per il lavoro che poneva il problema del lavoro, del reddito, ponemmo già i pericoli del fenomeno migratorio salernitano verso il nord o l'estero, che ha raggiunto nella nostra città cifre drammatiche. Però, come al solito, quella sinistra sinistrata di allora, quando i movimenti come asilo politico ponevamo queste tematiche, facevano i sorrisini. E mi ricorda quando noi all'epoca della chiusura dell'MCM, noi come asilo politico insieme anche ai movimenti disoccupati di allora ponemmo la questione dell'autogestione di quella fabbrica. E oggi ai posti di lavoro si sono assistiti di centri commerciali di una, che hanno una gestione ambigua di riciclaggio eccetera eccetera eccetera, che tendono, come devo dire, ad immiserire, a determinare più precarietà e metodi schiavistici di rapporti lavorativi. Ma il problema che ecco più grave quando noi ci riferiamo a perché noi consideriamo questa sinistra locale una sinistra turistica, come se il problema del lavoro, del reddito, della sanità in questa città, questa sinistra non lo abbia, come il problema del fenomeno migratorio, come non la tocchi, e questa è la questione assurda. Ed ecco per questo motivo che diciamo anche il De Luca, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nonché sindaco di fatto della nostra città di Salerno, si può permettere di dire Napoli e Salerno sono miei, Salerno sono io, e fra poco diciamo ci sono tutte le condizioni politiche con Draghi. Se uno di questi giorni diciamo esternerà la dicitura la regione Campania sono io, non ha tutto i torti. Alla prossima, care compagne e compagni. La vita è buona, sempre c'è da sta, pure se un livello di ignoranza è troppo critica. Funziona, dice sapa fa, esce da sto scuro che hanno i troppi foto ci rimane in vita. La vita è buona, sempre c'è da sta, pure se un livello di ignoranza è troppo critica. Funziona, dice sapa fa, esce da sto scuro che hanno i troppi foto ci rimane in vita. Chi si addonna viene, a chi appartiene, regala capone un buffo, visti chi son chi. La periferia di terri che sta zona, l'umido in dall'ossa che c'è fatta la padrona. Con zucche le scarpuna, arti ricchi o pazza, metti in dopo il manne che si scassa. Mandare c'è a confronto, cresciuta a mari contro. Sta vita rotta guarda che te ferma e condanna. Guaragna un parcheggio che se no poi non si magna. Mi c'è di un seguito in tasti casa prima l'anno. Punta, stanno lontano, pave giustizia c'è una fatta fa come cane. Senza caso ragazzi caruto Salerno va lascia se muove. Sempre più accuzzato il quartiere nuovo. Una corsa veloce, passa fotto un ombrello. Si gioco prefabbricato, cercato altrove. Non serve una chianta, non serve una progetto politica. Andando a mure, cartoni, amianto. 30 anni passati tra amore e bande. Tra iucate, pallone e spande. Tra tossici e santa. Coce su solo, oggi che manco doce. Dimmi, torna il look, torna ma voce. Torna ma cazzimma che ci ha avuto a vedere troppo precoce. Torna ma chi le pigliate stanno a parte e pace. Chi può zuppare, chi se votti a chi te può battere perché non sape sfugare. Chi fatica per non zittare, chi se mette scuole dice che caso. Anche Salerno dica grazie a mamma. La vita è buona, sempre c'è da sta. Pure se un livello di ignoranza è troppo critica. Funziona, dice sapa fa. Esce da sto scuro che hanno i troppi foto ci rimane in vita. La vita è buona, sempre c'è da sta. Pure se un livello di ignoranza è troppo critica. Funziona, esce sa va fa. Esce la su scuro che hanno i troppi poti già rimane in bilico. Urbana si passava in chi. Creatura che già cresce una fine, fine. La zona orientale, bascia marina. Per tuo che la via via fa una mulina. Cresciuta a cucchiarella reterina. Impianto serie a manetta per fare servizio a mattina. E meglio pensata fa nuda cara a luce e vino. Chi se combina pensando che stracciando se fa prima. Nata mia zemmina, a zona necchina, ma porta innanzi una mentalità che sopravviva. Radici una maniera, l'epoca ruspera, ma ci sei grossa visti certa gente che contava. Gli faccio vera raggi tenere indossa anche bull. Non come a mo' guagliuna capa faccia la miciolla. Vito una accapputtata, gesta fatta chi ne visse troppo e sotto all'ultima mossa tutta sfasseriata. La vi buona, sempre c'è da sta. Pure se un livello di ignoranza è troppo critica. Funziona, dice sapa fa. Esce da sto scuro che hanno i troppi foto ci rimane in bilico. La vi buona, sempre c'è da sta. Pure se un livello di ignoranza è troppo critica. Funziona, dice sapa fa. Esce da sto scuro che hanno i troppi foto ci rimane in bilico.